L'altro pianeta di Laura Bettini. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. In questa prima parte della puntata di oggi parliamo dello stravolgimento, diciamo, delle politiche ambientali degli Stati Uniti. Come sappiamo, il presidente Trump ha voluto mandare al macero quelle che erano state le politiche varate dal presidente Obama prima di lui. Ne parliamo con il professor Riccardo Valentini, che è un docente della Università della Tuscia, ma non solo, perché Riccardo Valentini è anche a capo della divisione che all'interno del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici si occupa di impatto dei cambiamenti climatici. Nel passato Valentini è stato anche parte del gruppo degli scienziati dell'IPCC dell'ONU che furono insigniti del Nobel per la pace per gli studi sui cambiamenti climatici, quindi insomma ci è sembrata la persona giusta per vedere e valutare insieme quali sono gli impatti che possono avere queste controriforme lanciate dal presidente Trump. Valentini. Beh, certamente questo si tratta di un atto che era in parte già scritto nella campagna elettorale di Trump, a cui poi era seguita anche la nomina al direttore dell'EPA di Scott Pruitt, e quindi questo negazionista di fatto, magistrato peraltro non meno competente diciamo sul piano scientifico, però che dichiara insomma che il problema del clima è stato inventato sostanzialmente dalla Cina, insomma, per creare problemi agli americani. Quindi è una, come dire, fa parte di una linea tracciata un po' populista. Io lo interpreterei questo atto di Trump, che praticamente sostanzialmente smantella il Clean Power Plan di Obama, lo smantella completamente per tracciare una nuova strategia americana, ma un atto populista perché contiene alcuni elementi che sono anche difficili da spiegare dal punto di vista economico. Il primo elemento, quello diciamo più evidente, è il fatto di togliere la moratoria che aveva messo Obama sull'esplorazione mineraria del carbone in America. Quindi si liberalizza quindi di nuovo l'estrazione del carbone. E questo ovviamente è un assist dato ai proprietari appunto di linee di carbone, soprattutto agli operai che negli ultimi anni avevano perso lavoro, e quindi c'era tutto un problema tutto nell'Iowa, cioè in questi posti diciamo di recupero dell'occupazione nel settore minerario. Però in realtà l'analisi economica di questo è veramente molto differenti. Il carbone non si vende, o comunque non c'è questo più grande mercato perché costa di meno il gas, quindi è una trasformazione che era già iniziata peraltro negli stessi Stati Uniti d'America con il loro gas fracking, no? Con il sistema, le nuove tecnologie, certo, che hanno inventato proprio loro, diciamo, che rendono oggi l'estrazione del gas molto competitiva. Infatti gli Stati Uniti hanno ottenuto grossi risultati anche nella riduzione delle emissioni di gas serra nello switch appunto dal carbone e petrolio verso il gas. E il trend diciamo del mondo è quello. Secondo punto un po' più preoccupante è che con questa nuova strategia di fatto vengono cancellate le misure che Obama aveva posto sui limiti alle emissioni di tutta la produzione di energia elettrica negli Stati Uniti, e questo c'è una parte importante delle emissioni di gas serra americane, e che era quello che portava Obama a guardare l'accordo di Parigi con dei target alla portata degli Stati Uniti. Quindi cioè, gli americani erano dentro l'accordo di Parigi con questo Clean Power Plan di Obama. Questo è più pericoloso perché senza quelle misure di limitazione delle emissioni di gas serra è molto probabile, quasi sicuro, che gli Stati Uniti non raggiungeranno gli obiettivi di Parigi. Quindi il tema che oggi c'è, secondo me più importante, più preoccupante, è che gli Stati Uniti sono fuori dall'accordo di Parigi se veramente verrà portato avanti questo nuovo act diciamo di Trump. Questo ha una portata geopolitica chiaramente importante, e non so se poi vorrà incentivare l'efficienza energetica o vorrà, ma non lo dubito che Trump insomma non mi pare si sia mai preoccupato di efficienza energetica. Esatto, quindi come raggiungeranno gli Stati Uniti questi obiettivi. Peraltro c'è da dire che questo di Obama era stato anche impugnato dalla Corte Suprema, perché alcuni stati hanno fatto ricorso, perché questa limitazione delle emissioni comunque avrebbe portato anche a un carbon tax negli Stati Uniti, cosa per cui, diciamo, il Congresso è sempre molto allergico, no? Diciamo, alle tassazioni. Quindi c'era in effetti una, anche non era ancora entrata in vigore in realtà, perché da febbraio 2016 era rimasta bloccata presso la Corte, però l'avrebbero, cioè un'amministrazione diversa, sicuramente portato avanti. Ora la domanda che rimane, secondo me, la più critica è se gli Stati Uniti staranno dentro l'accordo di Parigi o meno, e questo quindi quest'anno vedremo come si presenteranno alla prossima conferenza con questo sì, nuovo. Sì, perché l'ultima c'era stato proprio il cambio in quel momento, quindi diciamo i delegati degli Stati Uniti arrivavano ancora col mandato Obama, no? Esattamente, sì, non c'era stato, non si era stato impatto sulla conferenza di Marrakesh, no? Esatto, e quindi lo vedremo senz'altro quest'anno, col rischio che magari si portino dietro qualcun altro a questo punto, perché no, gli Stati Uniti con la Cina aveva fatto questo fronte unito. Scusa, la Cina adesso dice: io tengo gli obiettivi, ma certo da sola non posso raggiungere quei target che ci eravamo dati, e magari qualcun altro che cominci a vacillare. Sì, io credo che questo sì, sarà effettivamente il tema più delicato. Teniamo conto intanto di un fattore che pure è importante: negli Stati Uniti l'economia è abbastanza disaccoppiata dalla politica, no, federale, quindi diciamo, mentre in Europa noi siamo molto più come dire, legati ai nostri sistemi regolatori, le leggi impattano in maniera pesante, no? Diciamo, sull'economia, anzi uno dei motivi per cui in Europa spesso anche è stata vista, diciamo così, la battaglia per la protezione del clima come un ostacolo, insomma, alla competitività delle nostre imprese, che poi in realtà non è stato così, perché poi in realtà abbiamo venduto tecnologia green in tutto il mondo, e questo è un po' anche per gli Stati Uniti. L'industria americana comunque va avanti, perché prendiamo la California, insomma, lo stato più verde del mondo, girano le auto con motori a idrogeno, la California l'anno scorso ha dichiarato che è carbon neutral, cioè voglio dire, le aziende americane continueranno a fare business, anche perché i green jobs che sono cresciuti in America oggi rappresentano una maggioranza della forza lavoro, cioè sono cresciuti tantissimo i green jobs. E anche questo vale anche un po' su scala globale. In realtà oggi le green technologies nel 2016 hanno avuto investimenti per 300 miliardi di dollari, quindi sta continuando a crescere l'investimento appunto in green technology. Quindi può Trump da solo fermare questo sviluppo economico? Io credo sia difficile. Certamente però sarà da capire come ne uscirà da un impasse, da una parte di un'economia verde anche americana che sta tirando molto, e anche a livello ovviamente globale, e poi la sua posizione comunque politica. Potrebbe rimanere nel populista, potrebbe rimanere, come dire, sempre in questo suo modo un po' tranchant, un po' provocatorio, no? di negare tu, cioè negare il clima, poi dopo sotto sotto magari continuare invece a lasciare libero comunque il mercato. Non lo so, che dovrebbe essere, no? Perché comunque nei suoi principi, se lui, diciamo, se liberalizziamo, che ci sia l'economia verde, che ci sia quella vecchia, così. Il problema mi sembra anche però che comunque sia, si rallenta una marcia che invece dovrebbe andare più veloce, non andare più lenta. Sì, questo è vero, è anche vero appunto, questo è io penso sia infatti un dato, sono molto preoccupato in realtà io di questa cosa, perché un conto sono appunto quello della miniera del carbone, diciamo, che vanno sui giornali come dato, però il dato vero è l'altro, è il dato con cui gli Stati Uniti sostanzialmente con questo atto stanno sul percorso di uscita. Questo però potrebbe anche rappresentare uno stimolo all'economia europea e cinese, per cui se poi il mondo, come sembrerebbe, ormai c'è un turning point, cioè ormai abbiamo superato il punto, oggi tutte le imprese hanno un programma di sostenibilità ambientale, no? Lo vediamo nelle certificazioni, lo vediamo nei consumatori che chiedono sempre di più questo tipo di dati alle imprese e alle aziende, gli acquisti anche per esempio i public procurements, no? tutti gli acquisti dei contratti, anche in Italia sono entrate norme che riguardano la certificazione ambientale, quindi ormai è difficile tornare indietro, e io senso, che quindi si apra anche se proprio, diciamo, Trump vuole interpretare la vecchia economia, beh, insomma, bocca al lupo, nel senso, di qua in Europa e in Cina si sta pensando invece in un altro modo completamente, trainando anche un'innovazione tecnologica, perché non dimentichiamoci che le tecnologie verdi sono anche una innovazione, quindi portano brevetti che poi sono utili in tanti settori, dall'automobile ai settori anche della medicina in un certo senso, perché molte tecnologie, per esempio a basso impatto energetico come Internet of Things e cose di questo tipo, che sono stimolate, diciamo, appunto da questa diciamo, tendenza green, avranno impatti anche su altri settori. Quindi non lo so, effettivamente diciamo, è molto interessante capire quello che succederà, però mi sembra che si sta mettendo su una strada anche di vecchia economia che non ha molto futuro l'America, quindi se veramente la vuole prendere, ecco, io però magari ho ancora dei dubbi che sia più, come ripeto, insomma, un atteggiamento un po' provocatorio di Trump, insomma, poi alla fine però le aziende americane continuano a fare il loro business. Sì, considerando che il vecchio business che non rende più, ecco, non rende più come un tempo. Prendiamo qualunque settore, prendiamo il settore delle automobili. Oggi, diciamo, il settore delle automobili è tutto dedicato all'efficienza dei combustibili. Il futuro è nella macchina elettrica, cioè oggi noi abbiamo circa nel mondo circa 3 milioni di auto elettriche che circolano. Nel 2040, secondo la previsione dell'Energy Outlook, ci saranno 150 milioni di veicoli elettrici che circolano. Cioè, ormai questo è un trend. E anche le aziende che hanno investito, non è che oggi, siccome Trump ha preso una posizione così un po' ideologica, disinvestono su un processo che è già iniziato una decina di anni fa. Quindi, cioè, ci sono degli investimenti in ballo già partiti su un futuro che è difficile invertire, no? Semplicemente perché, insomma, c'è questo atteggiamento così un po' post-ideologico di Trump. Quindi il settore automobilistico, per dire, un settore che va in quella direzione, ormai tutte le tecnologie sono in quella direzione lì, ma come ripeto, altri settori, ma tutti, anche se prendiamo l'agricoltura, l'agroalimentare, ormai si parla di sostenibilità, si parla di sostenibilità del cibo, dell'impatto ambientale, dell'uso delle risorse. Se addirittura gli Stati Uniti vogliono uscire da questo, beh, bene, il mercato sarà più grande per noi, per l'Europa. Speriamo. Speriamo. Grazie Riccardo Valentini. Grazie a te, ciao Laura. Ci fermiamo qualche minuto, ci ritroviamo tra poco, continuando con l'altro pianeta, questa volta però parleremo di rifiuti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. L'altro pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte dell'altro pianeta. Continuiamo a parlare ovviamente di tutela della Terra, ma lo facciamo sotto un altro aspetto. Parleremo infatti di rifiuti. Il nostro ospite è Roberto Cavallo, che è un agronomo di formazione, un saggista, ed è specializzato ormai da moltissimi anni in tutto ciò che è comunicazione finalizzata al contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Roberto Cavallo sta per partire per la terza edizione di Keep Clean and Run, che è una maratona in sostanza che attraverserà questa volta dal Vesuvio all'Etna, ma poi ci dirà quali altri percorsi ha fatto, proprio per sensibilizzare la popolazione contro l'abbandono dei rifiuti e le possibilità di recupero e riciclo che abbiamo rispetto a tutto ciò che avanza. Benvenuto a Roberto Cavallo. Sì, intanto un saluto agli ascoltatori e grazie. Come dici tu, Keep Clean and Run, tradotto letteralmente, tieni pulito e corri. Poi l'abbiamo tradotto in italiano, pulisci e corri, perché in me bisogna pulire in questo momento, poi tenere pulito dopo che si è pulito. Il messaggio della corsa quindi è questo. Parte da una data, la data non solo simbolica ma pratica, che è il 10 di maggio, che è la giornata europea contro l'abbandono dei rifiuti, perché purtroppo da nord a sud, non solo dell'Italia, ma di tutta Europa, ci sono problemi di abbandono dei rifiuti. Noi pensiamo magari al nord Europa, tutto lindo, in realtà anche lì ci sono problemi di abbandoni. E allora è stata necessaria istituire una giornata europea contro il abbandono dei rifiuti. Noi in Italia abbiamo pensato col Ministero dell'Ambiente ad un evento un po' speciale che attirasse l'attenzione attorno a questa data, ed è nata l'idea della corsa. È nata 3 anni fa con Oliviero Alotto, che mi ha appassionato alla corsa in montagna. Abbiamo fatto prima da Aosta a Ventimiglia, poi da San Benedetto del Tronto a Roma, e quest'anno, come dicevi, dai due vulcani, dal Vesuvio all'Etna, dal 1° aprile al 7 aprile. Dunque, ma cosa fai? Tu corri, e che cosa succede intorno a te mentre tu corri? Allora, succede che io corro, intanto quest'anno la novità è che partirò un po' più tardi la mattina, quindi 8:30, già proprio per dar modo alle scuole di organizzare anche loro un'azione di pulizia e accompagnarmi nei primi metri della corsa, così che anche loro puliscano. E poi man mano che corro si può accompagnare la corsa, e quindi ci sono dei runner o dei biker che si hanno già prenotato, anche l'anno scorso mi hanno accompagnato nei pezzi di corsa, così come le comunità che io attraverso, i comuni, le frazioni, i parchi, si organizzano per accogliermi, e anche loro approfittano per pulire un pezzo del loro territorio. E questa cosa lo scorso anno ha fatto sì che noi abbiamo raccolto, io personalmente, perché ho lo zaino, quindi anch'io correndo raccolgo qualche cosa, ho raccolto una 60 chili, ma in tutta la che corsa, spero tu non abbia dovuto portare in giro. Ma in realtà un po' sì, io ho un'ammiraglia che mi segue, e ogni 4-5 chilometri scarico lo zaino che si è riempito, ma tutti insieme abbiamo raccolto oltre 12.000 chili di rifiuti abbandonati lungo i sentieri che io ho attraversato. Quindi è un'azione sia di pulizia, diciamo, sia anche dimostrativa, no? Del fatto che andando in giro, tenendo gli occhi aperti, si vede un po' quello che ci circonda, e non sempre è tutto bello, e si può anche rimediare, però, quindi non si guarda e basta. Esatto, espiamo un po' i nostri peccati, nel senso che lasciamo il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, come dicevamo negli scout. Passare e lasciare una striscia dietro di noi poco gradevole, cioè di rifiuti, la facciamo al contrario. Passiamo e come una cancellina che puliamo e raccogliamo quello che qualcun altro ha più o meno inavvertitamente abbandonato. La cosa interessante è che vediamo, soprattutto nei ragazzi nelle scuole, una sensibilità straordinaria, cioè loro hanno proprio voglia anche di fare una cosa pratica, di chinare la schiena e raccogliere le cose. E poi anche un modo per raccontare i nostri paesaggi, che come dicevi tu, magari visti da lontano sono stupendi, poi uno con la lente di ingrandimento avvicina e trova, ahimè, delle cose che quel paesaggio lo rovinano. Quindi noi vogliamo dire e raccontare che abbiamo il paesaggio migliore del mondo, abbiamo un territorio italiano straordinario, dobbiamo mantenerlo, anche perché purtroppo i rifiuti abbandonati entrano presto o tardi nella catena alimentare. Quindi notizie di questi giorni che nel pesce si possono contare fino a 11.000 frammenti di plastiche, 1/3 del pesce di grande taglia nei nostri mari contiene tracce di ftalati e di plastiche, e quindi davvero è un dramma, non solo visivo, ma ormai è un dramma planetario che rischia di coinvolgere prima di tutto l'uomo, e dobbiamo in qualche modo farci fronte. Roberto, questa è la 3ª edizione, ho letto che non intendi farne altre, quindi diciamo che pensi che questo tipo di manifestazione si concluderà quest'anno, e l'anno prossimo penserete a qualcos'altro? Ma io credo che le cose belle debbano avere in qualche modo anche un po' un limite, altrimenti poi uno si lascia, diventa quasi un'abitudine anche quella, e non ha più la presa mediatica che invece è necessaria. Diciamo che nelle intenzioni sì, da nord a sud, e concludiamo. Non ti nascondo che molte richieste stanno arrivando, che mi fa ovviamente molto piacere, perché vuol dire che il messaggio sta arrivando. Cito il nord-est piuttosto che la Sardegna, ecco, per citare due che mi hanno chiesto, vedremo, ma diciamo che l'idea è che proprio l'evento così grande, così organizzato, sai, sono 7 giorni, sono 350 chilometri, sono 15.000 metri di salita quest'anno, quindi anche impegnativo dal punto di vista della preparazione fisica, non è proprio semplicissimo tutti gli anni organizzare una manifestazione così impegnativa, però vedremo. Dunque, quest'anno c'è la particolarità però che siete anche seguiti da un regista, no? Questa... Quindi poi comunque resterà ai posteri questa. Ebbene sì, tu sai che nelle prime due edizioni io ho poi raccontato questo viaggio in un libro, si trova in libreria, edito da Fusta Editore, quindi il primo anno da Aosta Ventimiglia, poi da San Benedetto del Tronto a Roma, sia per raccontare quei paesaggi che ti dicevo e i sentieri che uno può fare anche prendendosi un weekend o qualche giorno di vacanza, oppure anche solo per leggere le mie testimonianze, quello che io ho provato dal punto di vista fisico, dal punto di vista naturalistico, quel che ho visto, dal punto di vista banalmente dei rifiuti che ho raccolto raccontando la loro storia. Ci siamo detti però che il libro è comunque un target più o meno limitato di chi legge, di chi è appassionato, e abbiamo fatto un bando per cercare un regista che avesse voglia di raccontare con documentario questa storia, e abbiamo avuto la grande sorpresa di avere una risposta che non ci aspettavamo da uno dei grandi registi italiani documentari, che è Mimmo Calopresti. Quindi lui e la sua troupe ci seguiranno in questi 7 giorni. Corrono anche loro, stanno sull'ammiraglia. Mimmo Calopresti vuole scorrere alcuni pezzi delle prime 2 tappe, perché vuol viverla dal di dentro. Mi ha proprio detto che vuol capire bene anche cosa mi spinge a correre e che rifiuti trovo, e quindi le prime 2 tappe lui mi terrà un po' compagnia per alcuni tratti. Poi arriviamo all'ultima parte, che è quella della raccolta anche dei fondi, dei finanziamenti anche per la realizzazione di questo documentario. Mi era venuta però una curiosità che era relativa alle prime 2 corse che tu hai descritto poi dopo nei tuoi libri. Dicevi anche, non so, racconto anche i rifiuti che trovo e così via. Che differenze hai trovato tra la prima e la seconda? Allora, dal punto di vista della quantità c'è un po' più di scarto, ho trovato un po' più di scarto, non tanto questione di centro-sud quanto di questione di grandi città. Avvicinandomi a Roma, soprattutto quando da Campagnano ero sulla via Francigena e quindi sono arrivato vicino poi al parco dell'Insugareta, quindi verso proprio dentro Roma, le vie consolari che si affacciano su Roma sono obiettivamente cariche di scarto. Dopodiché c'è un messaggio globale, cioè nei sentieri che io attraverso trovo dei rifiuti, ahimè, ma ovviamente molto meno, perché molto meno la gente che ci va, o chi ci va è un po' più sensibilizzato. Dove ci sono le grandi masse e dove c'è l'asfalto ne trovo molte di più, e questo purtroppo è... non c'è nord e non c'è sud, è così dappertutto. Dunque, veniamo all'ultimo capitolo che ci riporta quindi al documentario che farà Mimmo Calopresti. Si può diventare produttori di questo documentario con un sistema ormai molto diffuso, che è quello del crowdfunding, no? Sì, noi abbiamo pensato di anche qui coinvolgere tutti coloro che vogliono e che però magari non possono correre con me o non ce la fanno a seguire l'evento, partecipando alla produzione del nostro documentario. La produzione è molto semplice, nel senso che noi abbiamo ipotizzato di adottare un chilometro, i chilometri sono 350 e ogni chilometro adottato di per sé sono una decina di euro che uno può donare e servono poi per sostenere banalmente le spese di spostamento della troupe. E poi però abbiamo detto, se volete prenotare il DVD e quindi oltre a dotare il chilometro già potete avere il DVD, oppure anche una maglietta nostra griffata di quelle che utilizzeremo del Keep Clean and Run, o il libro che racconta questa storia, in modo che i fondi raccolti aiuteranno non solo a fare il documentario ma a produrre poi i DVD dopo. DVD che vogliamo regalare non solo a chi ci ha aiutato, ma alle scuole di tutti i comuni, da Aosta a Catania, che in questi 3 anni noi abbiamo attraversato, proprio per non abbassare la guardia del messaggio. Grazie Roberto Cavallo, in bocca al lupo allora per la corsa e a risentirci presto. A te. È tutto per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.